YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Ti posso spiegare? No, sì, non è come pensi, non è come pensi. Ah. Cioè, non è che volevo prendere in giro il che è la quarta stagione, quindi quarto anno. Non si sa che numero di puntate 80. Volevo fare il conto, poi mi sono dimenticata perché stavo facendo la scaletta di oggi con tanta precisione. Sì, ecco, proprio oggi che abbiamo un ospite da esame di giornalismo abbiamo fatto un disastro. Beh, comunque che sarebbe autospionaggio industriale, vi fotograferei la scaletta di oggi. Non c'è scritto niente. Poi tu sei stata una settimana al festival del cinema. Non so niente di quello che è successo, se non io di Venezia. Ho lavorato tantissimissimo. Chissà quanto ha lavorato Daniele Bellasio. Sì. Guarda che la canzone al di là di ancora la Cagnola, vediamo se la sai. Perché sono 18 anni dalla morte di Lucio Battisti, il 9 di settembre. Sì. Mamma mia. Quanti anni. Pazzesco. Allora ho scelto una canzone a caso di Lucio Battisti. Certo. Comunque a me piace, potevi un contenuto carino. Acqua chiara. Sì, le bionde trecce però nel tuo caso proprio bionde. Anche trecce ormai. I capelli verde rame non si poteva. Salame tutto sommato. Oppure qualche canzone stupenda dell'ultimo Battisti, quello con Panella. Adorato. Mattia Feltri ha postato sulla sua timeline di Facebook, perché parliamo ancora di social network, certo, qui a Radio certo. YouTube, certo. Una canzone inedita di quell'ultimo lì Battisti, Gabbianone. Che secondo me te la puoi anche inventare una canzone inedita. C'è lui che canta un testo alla Panella, lo pubblichi e tu dici... sei di quello che non ti piace. Mi piace molto che criticano il fatto che sia criptico. Allora, secondo me Battisti è intoccabile. Ah, ecco. Però ci si può inventare un finto testo alla Panella e dire questo era un testo. Sì, ma non renderebbe. Comunque vabbè, dai, allora, facciamo noi i compiti. Abbiamo ricordato Lucio Battisti, facciamo i compiti perché allora Etta di Bellasio, Etta Marta Cagnola sono rimasti uguali per l'estate anche 349-238-6666 349-238-6666 il numero per gli SMS e per i WhatsApp. Cancelletto Radio Tube, cancelletto ISDV, non è che sia cambiato moltissimo il fatto che noi raccontiamo, mostriamo alla radio i video più o meno visti sui social network durante la settimana. E così raccontiamo anche un po' la settimana. E così ci capita di raccontare la settimana. Allora, mi hanno detto che c'è una sigla. C'è una sigla nuova. Sì, no, però nuova. Tu hai già parlato di questa cosa. Io non ho ancora iniziato a vedere Narcos 2. Non è ancora iniziato con Narcos 2? Perché devo finire Deutschland 1983. Molto adesso la stai guardando. Io l'ho guardato nelle vacanze di Natale. Quanto è bella Deutschland 83? Molto bella. Devo dire, molto bella, strana, perché poi quando si mettono insieme produzioni di paesi con culture cinematografiche molto diverse, il prodotto è più originale. Ho fatto pure il critico. Sì, no, anche Deutschland 3 mi è piaciuta molto. Però in rete, per quanto riguarda Narcos 2, qualcuno ha dimostrato di essere fan attraverso un video. Vai. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo. Giovanotti che canta la sigla che è un fan di Narcos, e gli altri hanno postato quanto è bella Narcos, e lui è cioè mentre Muccino fa i film con, dai, dalle canzoni di Jovanotti, Jovanotti fa le sigle delle serie TV. Bravo, bravo Jovanotti, fan di Narcos 2, che io non ho ancora visto, l'ho detto. Ma a proposito di Muccino, che era Venezia, no? Certo che Muccino era Venezia. E che raccontaci qualcosa di Venezia, non è successo nulla. No, ma soprattutto da lì ho avuto l'impressione che si è parlato tanto dei film in rete, sui giornali. Capito, però scusami, sì, ho capito dove vuoi arrivare. Cioè si è parlato proprio solo di film. Allora, io non posso sempre difendere la categoria dei deschisti dei siti internet. Deschisti, cioè quelli che fanno i titoli, insomma. Sì, ecco. Sì. Mia mamma non lo sa, da 20 anni che faccio lo stesso lavoro. Sì, comunque, mia quelli mamma che fanno i titoli... è convinta che io faccia il pianista in un bordello, come il famoso libro. Ecco, esatto. Sì. Sono loro che si sono vestite così, non è che sono i fotografi che hanno fatto le foto o i giornalisti che le hanno messe. Allora, tu dove eri in quel momento? Io l'ho già raccontato. Spiegalo. In diretta a Gianluca Nicoletti, perché io ho avuto uno shock di fronte alle due signorine che hanno varcato questo il red carpet vestito a lunghe falcate e poco vestite, perché sì, una delle due signorine, il vestito che era bello chiuso, se l'è aperto praticamente davanti a me. Se l'è, sarà successo, non è che era voluta, sì, la una cosa. Folata di vento, allora. Però del resto, se lo metti vento troppo lungo, come l'attrice cinese, cadi. Se lo metti troppo aperto, allora dici, non lo metto direttamente. Esatto. Così non oppure non in tuta, niente. Vai in tuta sul red carpet, sì, e sei comoda, diciamo. Sì, e a loro invece erano accaldate. Ma invece, siccome vuoi parlare di film, a te che cosa è piaciuto? Tanto manca ormai poco, non puoi influenzare la giuria, poi non ci sarà la par condicio. No, non, ma poi soprattutto sai che a quest'ora già si sa, cioè loro sanno chi ha vinto per una ragione molto semplice. Che devono perché invitarli. Se qualcuno, perché se qualcuno è già ripartito e sa di aver, bisogna cercare di capire se riesce a rientrare, perché certo, se avesse vinto Larraín con Jackie o Damien Chazelle con La La Land o qualcuno dei loro attori, magari vuole rientrare dall'America. Quindi questi non hanno vinto, non no si no sa. Ma può essere invece, okay, che arrivi qualche, guarda, lo sappiamo. Vabbè, tra ma due la, ore, la segnalazione di Marta Cagnola. A me devo dirti che è piaciuto quello di Kusturica con la Bellucci, perché io adoro la Bellucci. Vabbè. Mi è piaciuto, non sono riuscita a vederlo tutto, l'ho detto prima, ma era molto bello quello di 4 ore di Love Diaz. Sì. Mi è piaciuto tanto e non mi è dispiaciuto, non ha avuto tanto successo, ma a me l'horror post-apocalittico cannibale, storia d'amore in cui si mangiano e poi si amano, mi è piaciuto abbastanza. Anna Lilia Marpur. Ah, bene, avete preso nota? Invece, sì, mentre tu eri a Venezia, sì, hai seguito ovviamente tutte le cose politiche che sono successe in questa settimana, tranquilla. Quindi in questa trasmissione io farò delle... Ma che cosa allora, niente, perché devi sapere che quando sei nei festival, sì, io poi una volta t'ho portato con me a Sanremo. A Venezia sei... non ancora però, A Venezia ti porterò, dove t'ho portato a Sanremo. Sono... No. Infatti, ecco, l'ho portato a Sanremo perché se succedono quelle cose lì io poi non rispondo, esatto, di lui, non esatto, posso. Sì, sì. Lo sai che nei festival fuori il mondo è come se non esistesse. Sì, questo è vero. Però devo dire che qualche eco. No, allora a Roma il sindaco è sempre lo stesso, tutto il resto attorno cambia continuamente. Ma questa è stata la settimana in particolare, mm-hmm, di un leader politico di cui, sì, si parlava da tanto tempo, addirittura come di un possibile candidato premier. Ah. Luigi, detto Luigino, detto da De Luca, il governatore della, sì, Campania, Di Maio. Cosa ha combinato? Sì, e dunque lui ha ammesso di aver commesso un errore, che da parte di un leader non politico... Non ha mai usato la brillantina Linetti, come si diceva un tempo. Perché questo era un vecchio carosello. Dobbiamo non riprendere... ero ancora nata. Non ero ancora nata. Vedi, non so più fare bene la spalla. C'era un carosello in cui un vecchio attore, Cesare Polacco, diceva: anch'io ho commesso un errore, faceva l'ispettore Rock, si toglieva il cappello, sotto era pelato, e diceva: ho commesso un errore, non ho mai usato la brillantina Linetti. No, ma questo non è un problema che ha Luigi Di Maio. No, anzi, un bel ragazzo. Di Maio. Esatto, appunto. Ha commesso un altro errore. No, vuoi sentire qualcosa? Così introduciamo il personaggio della settimana. Sentiamo, vai. Che errore avrà mai commesso? Boh. Ho commesso un errore. Ho sottovalutato perché pensavo che quell'iscrizione venisse dalle denunce di uno nominato dal PD a capo dell'AMA. Non l'ho detto a Roberto, a Carlo, ad Alessandro, a Carla. L'ho sottovalutato e sono qui a guardarvi negli occhi e a dirvelo. Cioè, non ho capito. È molto complicato. Dunque, praticamente avrebbe ricevuto un messaggio in cui veniva detto che un determinato assessore, l'assessore Muraro, di cui avrei sentito parlare, era indagato. Però lui dice di aver sottovalutato questa cosa perché non ha considerato che l'iscrizione nel registro degli indagati fosse un vero atto di indagine, perché poteva essere partita dalla denuncia di un esponente nominato al PD. Insomma, un po' una difesa così, no? Con qualche scricchiolio, però si è difeso, ha messo l'errore e ha sottovalutato. Insomma, nel Movimento 5 Stelle c'è un attimino, c'è una parola che se mi sente l'ospite successivo mi boccia subito, di confusione. Ah, ma pensavo che invece fosse stato un errore linguistico, non è lui quello degli errori linguistici? No, ma quello è l'altro personaggio della settimana, quello che sale, perché se scende Di Maio, sale Dibba. Sì. Di Battista. E lui cosa ha combinato? Lui nel corso del tempo ne ha combinati parecchi. Vuoi sentirne qualcuno? Sentiamone una compilation. Sentiamo. Deputato migliore, io non l'ho interrotta. Se vogliamo stiamo d'accordo. Lei non mi interrompe, io non la interrompo. Stiamo d'accordo. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo? Sì. Aspetti. Quelle banche scrivono le manovre finanziarie. Però questo è il punto. Però mi faccio finire. Diciamo il totale soddisfamento. Io non ce la faccio, devo lanciare la viabilità. Alessandro Di Ba, però a viabilità c'entra, perché sai che lui in moto tutta l'estate, quasi tutta l'estate, è andato in giro per fare campagna per il no al referendum con la moto lì, con uno scooter. A me piaceva quella cosa lì, che andava in giro e non aveva quindi tempo di preparare dei discorsi con i verbetti. Con i verbetti tutti. Vabbè. Traffico tra poco. YouTube. Vabbè, ma è tutto molto bello. Batti lei. Batti lei, no, batti l'avevamo lei. Anche già mandato in. Ma comunque può succedere, eh? Io ma dico, no, può succedere, uno è distratto, sta parlando, è preso nella foga del comizio. Non dovrebbe, ecco, no, diciamo, perché sennò non dovrebbe, ma può. Comunque, per esempio, sai che, allora, tu conosci il governatore della Campania, te l'ho già nominato. Poi dopo parliamo anche d'altro, non parliamo solo di politica, no, perché ti vedo già preoccupato. Ma no, chi mi devi aggiornare? Ecco, io non ho sentito niente questa settimana. Allora, il governatore della Campania tutte ero le settimane... Ero lì a fare red carpet con il vestito. È Vincenzo anch'io. De Luca, quello di personaggetti, sai che lui sui social diventa sempre molto virale, perché diciamo ha un linguaggio molto contemporaneamente lirico e sanguigno, e unire le due cose non è semplice, lui ci riesce sempre in tema di Movimento 5 Stelle, parlando in una strana trasmissione che lui tutte le settimane co-conduce insieme a un intervistatore dove parla dei fatti della settimana, ha diciamo trovato una definizione per i tre principali leader del Movimento 5 Stelle, ovvero due li abbiamo già citati, esatto, Dibba, Di Battista, Alessandro e Di Maio, ma c'è anche Fico, che quindi quello della vigilanza quello Rai. Della vigilanza Rai, sì? L'hai detto con paura? Noi siamo vigilati? Sempre. No, noi siamo un po' meno noi. Ogni tanto, vabbè, non lo so. No. Allora, sentiamo, vuoi sentirlo? Vuoi vederlo? Che cosa De Luca... mostramelo alla radio, cosa va a avere tutte le cose carine. Senti come li ha definiti. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe, che quando si sono candidati con la loro faccia, non 50 anni fa, 3-4 anni fa, sono stati bocciati tutti quanti. Fico, Campania, vi ricordate? Luigino, a Pomigliano, 56 voti, credo. E Di Battista dice che, se non l'ho letto su un giornale, si era candidato pure a una municipalità di Roma, bocciato pure lui. Quindi questi sono tre miracolati che hanno sfruttato l'onda grillina. No, ma scusa, io pensavo che ci fosse una cosa carina. No, tre mezze... Beh, tre mezze pippe, diciamo, è un hashtag tre mezze pippe. Hashtag la tocca piano. E beh, ma lui è così, Lui è così. Poi lui, devi sapere che, sai che una volta ha parlato di bamboline, bamboline, non mi ricordo neanche. Ah, sì, mi ricordo, sì. E allora è stato molto critico. Sì. Brutta storia, vedi? Ha detto... Allora lui ogni volta dice, no, però non è che l'associazione in difesa delle bamboline, adesso mi querela, no, mi denuncia, un personaggio che si autocrea i tormentoni. Cioè, ci sono... Beh, è una tecnica comunque, dai, è una tecnica. È una tecnica provata. C'è un altro personaggio. Io quest'oggi ti sto facendo fare una carrellata delle persone. Mentre tu eri a Venezia, alla mostra. Sì, perché io ero distratta, stavo guardando i film. Dotato di molto autan, io sono andato alla festa dell'unità. Ah, ci sono ancora? ancora le zanzare alla festa dell'unità? Intanto c'è ancora la festa? No, scherzo. No, c'è ancora, e come? C'è ancora. Io l'ho detto in radio che quest'estate sono stata a una festa del PD, quindi... È quella, si chiama quella. Sì, si chiama dell'unità ancora, e della festa del PD. Sì, certo. Allora, qui tu sei stata a Milano o in Io altra... sono stata a Prato. Ah, proprio nella Toscana tosta. Sì, io sono stata a Prato. Abbiamo fatto una bellissima serata con Carlo Conti e Linus a... Sì, ma sì. Dai. Tra l'altro un video che... Ma sai quanto è stato visto quel video lì? Ce l'abbiamo? Non lo mettiamo? No, non ce l'abbiamo. Non ti autociti. Non ce l'abbiamo, no. Però potevi invitarmi. Vabbè. Allora, io invece sono andata a quella di Milano. E mentre ero lì, che concionavo, parlavo, comunicazione, tutto impancato, ero lì, tutto, facevo l'esperto di comunicazione. Sì. Chi mi passa vicino? Chi ti passa vicino? Col vestito di quella di Venezia? No, no, chi ti passa no, mi passa vicino con il suo passo molto da leader, però con il viso molto tra il corrucciato e il distaccato. Sì. Mi passa, vuoi vederlo direttamente senza che te lo dico? No, dai, dimmi chi era, dimmi chi Massimo era. D'Alema. No, Massimo D'Alema. Che ma passa Massimo D'Alema lì, mentre piano piano Che cosa ha fatto? E a un certo punto ha rispolverato una vecchia battuta. Vabbè, sentiamolo. Non posso prendere i libri. Sì, quello è contro, leggerli in particolare è contro il partito. Adesso no, grazie. Leggere libri è contrario al livello del partito. Però è sempre fresca. Ma perché qualcuno tentava di vendergli dei libri e lui ha detto sì, di no? Sì, poi l'ha comprato. È un libro sul Senegal. Ha detto che è stato nell'isola di cui si parlava nel libro. E quindi niente, è stato quindi anche gentile. Poteva comprare il libro perché tanto non era costretto a leggerlo, essendo stato nell'isola. Sai che non ti riesco a stare dietro? Sei tornata da lì, da Venezia, più frizzante che mai. Non lo so. Più frizzante che mai. Ho visto tanti film. Ma vuoi che continuiamo a parlare di politica? Tiro fuori un Renzi? Avvisiamo Gian detto Matteo. No, perché sai che non è che si amino proprio tantissimo, Massimo e Matteo. Ma dai, non ne avevamo mai parlato. Non è che si amino proprio tantissimo. Anzi, Matteo sospetta ci sia una tresca tra Massimo e qualcun altro. Politicamente Matteo e Renzi, Presidente del Consiglio, sempre sì, lo stesso. Tipo Beautiful, che sì. Massimo abbia una tresca con politica con qualcun altro, ok. Uh-huh. E infatti gliel'ha detto, siccome Massimo continua un po' a criticare, ad attaccare, e vuoi sentirla? Vederla? Cosa ha detto Matteo? Matteo Renzi. Sentiamo. C'erano due riforme costituzionali che davano più poteri al Premier. Tutte e due non concretizzate. Una era quella voluta da Berlusconi e una era quella voluta da D'Alema. D'Alema e Berlusconi avevano queste due riforme. Non sono passate. Non è un bene, non sono passate. Queste due riforme, vabbè, ora non ironizzate su Berlusconi e D'Alema, perché quando c'è l'amore, per me, bisogna aver rispetto. Quindi, non fate, quando c'è l'affetto, è inutile fare battute. Hai capito, però a questo punto devo sapere se è vero. Secondo te è vero? Ma come che sei vero? Non lo so, scusami, sei tu che li conosci ora a Venezia. Ma il problema è che Berlusconi è talmente buono, diciamo buono nel senso più lato del termine, non vorrei adesso passare per... che probabilmente è accusato di volere bene a Matteo Renzi, ma di non poterlo dire troppo perché sennò il patto del Nazareno, le cose. Poi è accusato di, dicevano addirittura da Lemoni una volta. Ah, è vero, da Poi Lemoni, l'hanno accusato che in realtà lui andava d'accordissimo con Veltroni, gli piaceva anche Veltroni. In sostanza Berlusconi viene sempre accusato di essere molto amico del leader dello schieramento a lui avverso. Una cosa un po' strana. Quindi alla fine non sappiamo la verità. Dai, allora, prima della pausa, sì. Raccontami almeno solo di qualcosa che arriva dall'estero. E non poi... sono preparato. Ma no, dai. Cosa vuoi parlare? Al candidato libertario? Ma è mandato? Boh, pazzesco. Scusami, allora, io ero al cinema, no, sì. Ero appena uscita dalla sala, vedo una mail con scritto... Lui è il numero uno con... Io lo dico, posso dirlo, c'è la par condicio, ecco. Anche in America. Io, sì. Fossi cittadino americano, voterei Gary Johnson, il candidato libertario, che però ha qualche problema con la politica estera e forse anche con la geografia. Gli hanno chiesto, per esempio, non so, Siria, avrà sentito parlare della Siria? Mica tanto, vuoi sentire? Sentiamolo. What would you do if you were elected about Aleppo? About Aleppo. And what is Aleppo? You're kidding. No. Aleppo is in Syria. It's the epicenter of the refugee crisis. Okay, got it. Got it. Okay. Ah, ma certo, Aleppo non sapeva nominare. Cos'è Aleppo. Sai che ha chiesto scusa sui social, ha ragazzi. Scritto, ha spiegato, ha ma messo l'errore. Ma no, poi tranquillo, dov'è Aleppo? E l'altro gli fa, ma sta scherzando che non lo sa ancora. Ma Aleppo, non mi risulta. Chissà non se è successa una cosa di questo tipo all'ospite. Guarda, io non voglio immaginare. No, non fare la gag che avevi paura di lui. L'abbiamo no, già io detto. Sono terrorizzata ecco, da lui da sempre, ma basta, fatta, l'abbiamo già fatta. Oh. Non posso immaginare cosa avrebbe detto lui. Esatto. A un'intervista del genere. Ce l'abbiamo al telefono il direttorissimissimo del TG della 7, Enrico Mentana. Buonasera, direttore. Buonasera a voi, buonasera. Tu l'avresti a voi. Preso a. Cioè, ti è capitato? A schiaffi, non lo so. Ma guarda, queste cose, se sono dei lapsus, capitano a tutti nella vita, no? Se questo è un vuoto, io mi ricordo un mio giornalista che una volta scrisse che insomma una città che è tornata di moda, per purtroppo in piena cronaca in questi ultimi tempi, però che un traghetto era arrivato a Calais e io me lo sono mangiato. Una volta un'altra giornalista in diretta disse è successo a Capri in provincia di Modena e io vabbè ma quello detto, quello diretta, dai è in diretta sei ignorante come una carpa. Però questo è bellissimo. Non era la cagnola, no? No, no, no. Non mi sarei permesso, ne sono un estimatore, non l'avrei detto e non lo riporterei adesso, soprattutto. Ecco, non davanti a me, no. Sarebbe ecco. Stato tra noi. Esatto, sarebbe stato tra noi. Direttore, tu sei stato uno dei personaggi dell'estate sui social per la più... Che fa capire che estate è stata. Beh, detto da... No, non è no, vero, non è vero. Enrico Mentana e Gianluca Vacchi, diciamo. Sì, esatto. Ecco, io rappresentavo la parte maschile. E tu non hai neanche dovuto ballare, vedi un po'. No, esatto. No, personaggio, cioè, oddio, ha inventato una parola e questa parola ha fatto, diciamo così, scrivere commentatori, gente che studia. La parola è webete. Pensavo Aleppo. No. Si è visto. Webete. Webete. In una risposta a un lettore, perché Enrico Mentana, non come Morandi, però risponde parecchio ai lettori che commentano i suoi editoriali, perché sono dei veri e propri editoriali i tuoi post su Facebook, no, direttore? Sì. Adesso mi è stato vi ho telefonato in ritardo perché mi è toccato rispondere di una cosa che ho scritto su un vicepresidente della Camera. Vado quindi... abbiamo visto che hai criticato Luigi Di Maio dicendo che ha esagerato, addirittura hai usato il termine diffamazione addirittura. Beh, quando dici che i TG manganellano i 5 Stelle per insomma perché hanno ricevuto quest'ordine, voglio dire, lo va a dire gentilmente a chi lo fa scrivere, blog o altri, a tutto c'è un limite. Cioè... No, beh, anche perché è un attacco a un direttore che si sente dire no, che riceve no, degli attacco, ordini. Ha attaccato i TG, no? No, sì, ai no. Direttori, diciamo. Ha attaccato tutti i telegiornali, ma sarebbe stato grave anche se ne avesse attaccato uno solo. Per quanto mi riguarda, non è che si può lasciare, se si fosse detto, se qualcuno avesse detto che tutti i politici rubano, io si sarebbe alzato e avrebbe detto come si permette, no? Ecco, poi vai a dire no ma non volevo dire tutti eccetera eccetera, no, impariamo per fare la distinzione dei poteri e dei saperi anche, cioè se uno dice che in questo momento si parla tanto di Roma perché c'è la notizia è un conto, si può discutere se poi sia stata trattata bene o male, ma non se uno dice che i TG fanno così perché hanno avuto l'ordine di manganellare, allora il celerino lo farà qualcun altro. Ecco. Difficile il rapporto della stampa con i 5 Stelle. Ma i 5 Stelle non sono diversi. Il vero dramma per i 5 Stelle è che in questo non sono diversi dagli altri. A me è capitato di dover rimbeccare sugli stessi temi lo stesso Premier in diretta in TV, quindi non è che cambia qualcosa. E su Berlusconi abbiamo andato lungamente. La questione è che ci si aspetta che chi, come dire, giocosamente manda dove sappiamo il mondo intero, poi non è che si mette a piangere, no? Non è che si danno e non si prendono, certo. No? Sì. Sono quelli che offendono, poi se uno gli risponde si mettono a piangere. Ecco, questa è la logica, peraltro, anche della analfabeta funzionale sul web. Ecco. Allora torniamo, facciamo lì. Una brevissima pausa. 17:30. Vi ho riportato a bomba. No, io, però vabbè, adesso Marta deve dare una piccola pausa. Fare la pausa. Perché voglio parlare di questa cosa, perché voglio sapere quanto si è divertito Enrico Mentana a rendere tutti webeti, perché tutti per un giorno hanno parlato solo di quello. Tra pochissimo, tra direttore poco. Ti chiediamo proprio un minuto di pausa e poi siamo ancora insieme. YouTube. E rieccoci con Radio Tube. Daniele, io dopo 2 ore e mezza sto perdendo la voce, 2 ore e 36 minuti, quindi ritorna tu sull'argomento. Mi metti alla prova. Suppliscimi. No, dunque, quest'estate, allora, tu devi sapere che da quando Enrico Mentana ha smesso di usare Twitter, sì, ha iniziato a usare Facebook in modo straordinario, sì, per cui è diventato, diciamo, lo dicono tutti, quindi lo posso dire anche io, anche se lui è al telefono, uno dei più bravi, scrive degli editoriali, risponde, trova dei modi di interagire con la rete che funzionano. Mm-hmm. Quest'estate ne ha trovato uno in particolare che ha funzionato non soltanto sulla rete, anche perché era un po' contro la rete, rispondendo a un lettore di Facebook che tirava fuori per l'ennesima volta la storia che gli immigrati sarebbero negli alberghi a nostre spese, a un certo punto inventava la definizione webete. E allora noi l'abbiamo chiamato al telefono, adesso mi torni in soccorso. Anche per sapere che cosa, come è venuta fuori questa definizione e se davvero pensa che la rete ci renda un po' tutti un po' webeti. Direttore. Beh, intanto qualche piccola precisazione. Intanto è successo 2 settimane fa, non quest'estate. Insomma, sembra una cosa, cioè, nell'ambito della forte polemica che si è creata attorno al terremoto, certo, che in maniera per me poco concepibile è tirata in mezzo questa cosa terrificante, no? Poveracci dei terremotati in tenda e quelli negli alberghi a 5 stelle, che è uno sproposito intellettuale dirlo prima ancora che una fesseria, no? E allora una persona, una signora che aveva vissuto direttamente ad Amatrice il sisma, aveva scritto proprio su Facebook, io l'avevo postata questa sua lettera, una precisazione dicendo che nessuno è contro gli immigrati, le persone che lì vivono a Amatrice e si sono trovati a vivere la notte del sisma, non solo, ma alcune persone immigrate facevano parte della piccola comunità di Amatrice quest'estate, qualcuno forse era stato anche là sotto, e comunque nessuno ha detto, nessuna delle persone che si apprestava a passare le notti in tenda, io vorrei andare in albergo, che vengano qui al nostro posto i migranti. Siccome se l'aveva detto queste cose, questa signora è stata accusata di non esistere sostanzialmente, no? Che era una cosa inventata, allora all'ultimo che ha detto questa cosa io ho risposto per le rime, questo poveraccio si è andato di mezzo, in realtà al di là dei suoi demeriti, e no, e alla fine gli ho detto, non è possibile fare così, lei confonde il virtuoso col virtuale, c'è una gran differenza, e lei è un webete. Io ho detto, come Daniele mi conosce meglio, sa benissimo che se mi viene da fare una battuta la dico, non me la dimentico un secondo dopo, sì. Tant'è che questo poveraccio, vista la mala parata, è perché non è fesso evidentemente, ha cancellato il suo commento e quindi si è eliso tutto il resto, compreso questa risposta. Ma qualcuno nel frattempo aveva fatto lo screenshot, certo, e l'ha riportata, ed è diventato come se io avessi lanciato sul mercato un prodotto, no? Questa cosa del web, perché per me è una frase con una parola con un'altra che io non ho mai più usato, peraltro. Ecco, ma che impressione ti ha fatto il fatto che per giorni tutti in rete, e non solo, perché poi sui giornali, poi tutto questo rimbalza anche sui giornali, tutti avessero parlato di questa cosa? È un effetto depressivo, perché è evidente che andiamo dietro a delle cose, andiamo dietro più a un'etichetta che a ciò che l'etichetta rappresenta, più alla forma che alla sostanza. Ecco, ho detto etichetta, si confonde spesso l'etichetta con l'etica, e quindi l'etichetta è una piccola etica. Qui si tratta di vedere che cosa sta succedendo, c'è uno scorazzare e un imperare di analfabeti funzionali sul web e la prevalenza di verità controfattuali rispetto a quelle fattuali. Cioè esiste una generazione, che non è soltanto una questione anagrafica, di persone che ormai vivono nella realtà virtuale più che in quella reale, e in questa realtà virtuale vigono regole diverse, per cui non c'è l'esperienza, l'aver letto, il sapere, il saper concatenare gli eventi, no, si pensano ai motori di ricerca, perché c'è qualcuno che sempre a una realtà diversa, complottistica, no? Appunto controfattuale da proporre, e che ha lo stesso valore di quell'altra. Per cui domani l'11 settembre si dirà che lo sono fatti da soli gli americani, che non è mai successo e che l'uomo non è mai andato sulla Luna, che Elvis Presley è vivo, e tutto questo troverà qualcuno che per fascino appunto di capacità di controbattere sul web lo dirà, lo sosterrà, e se qualcuno dice guardate ragazzi è una fesseria, ma senso sarà lei, e verranno fuori. Il problema non è questo, il problema è cosa succede se due ore dopo il terremoto spinta fuori uno a dire che i soldi degli passati terremoti non sono mai stati dati, è stata appositamente abbassata la magnitudo da 6,2 a 6 perché così il governo non paga. Sì, ok, ma perché subito dopo succede? Cioè ci sono degli avvelenatori di pozzi? Cioè per avere un webet ci vuole un master webet. Mi spiego? Vero. E quindi da domani tutti i master web. No, devo dire no. Hai parlato di complottisti e di 11 settembre, hai dato delle risposte però fantastiche. Posso leggere due risposte che hai dato? Perché sto perdendo la voce. Allora, senta, ho letto... Però non sia per la commozione. Ho letto anche un po'. Ho letto e scritto e fatto trasmissioni mettendo a confronto le varie tesi sull'11 settembre. Ne so abbastanza per poterle dire con serenità che questi atteggiamenti da bulletto saccente può provare a tenerli in una conversazione a casa, ma a condizione che viva da solo. E poi un altro: lei beva quel che vuole, non sono il suo barman, e dai suoi modi, se è così di prima mattina, le consiglio di tenere il fiasco più lontano dal comodino. Che dire. Io adesso quasi ti faccio dei commenti per vedere cosa mi rispondi. Pazzesco. Quello diceva? No, ma guarda, la questione è che quello diceva, appunto, non la beviamo, no? Che sia stato, no? Che davvero sia andata così l'11 gennaio, crede che noi ce la beviamo, no? Per quello io ho detto, ho giocato sulla questione del bere, beva come vuole, eccetera. Appunto, quelli, come si dice, gli apoti, no? O apoti, quelli che non se la bevano, no? Ecco, il problema è questo, il vero problema è questo, che c'è gente che diffida ormai di tutto, per carità. Veniamo da probabilmente decenni in cui si è creduto a tutto fin troppo, no? E la concezione miracolistica della politica per slogan probabilmente ha fatto più danni della grandine, però adesso siamo arrivati appunto a questa ondata controfattuale che è veramente, veramente devastante. Allora io sono ripromesso, ci sono due possibilità, o stare sui social o restare ex cattedra dove siamo nel giornalismo, quello dentro il recinto. Secondo me una posizione perdente, quella di star dentro, di misurarsi, di non parlare, anche perché io ritengo appunto che ci siano quelli che sono fortissimi nel mulinare le braccia, i pugni, no, per far vedere quanto sono forti, ma se uno a sua volta si mette in posizione di guardia comincia a scappare strignando, dice mi ha minacciato, no? Vero. Allora bisogna scendere in campo, anche perché così si distingue tra l'utente vero e il troll, perché poi c'è anche questo, c'è tanta gente che a volte fa anche una certa impressione dover discutere con uno che si chiama Nembo Kid e ha la foto di Brigitte Bardot, no? E uno dice ma io con chi sto parlando? No? Ma però anche quelli devi andare a smascherare, perché sennò uno dice Brigitte hai ragione, no? Oppure Nembo hai ragione, cioè, il problema è che ti trovi in questa situazione che a volte è straniante, ma lo devi fare, perché sennò alla fine passerà che e allora perché... no, in questi giorni, perché non si è parlato di Sala tutti i giorni, di Pistoia, la giunta indagata, cioè c'è sempre una cosa che a furia di dirla diventa ecco cosa fa, attecchisce come se fosse una verità che nessuno bisbosca, no? Rassoda, dissoda tutto quanto il terreno dalle fesserie o dalle esagerazioni, no? Perché poi la cosa più insidiosa sono le cose che vengono dette con un fondo di verità ma un... poi gonfiore di esagerazione che fa diventare tutto dilatato e deforme. Il famoso quello che i telegiornali non hanno il coraggio di mostrare. Non hanno il coraggio di dire. Perché non avete detto quello? Magari un minuto dopo che è stato detto. Certo, no? Certo. Cioè, quello è il massimo. No? Domani 11 settembre. Domani 11, obiettivamente è innegabile. Cagnola, tu sei sempre sulla notizia. Ma è perché io ho avuto degli ottimi maestri, direttore. Esatto, vi lasciamo solo. Il 16 settembre saranno 10 anni dalla morte di Oriana Fallaci. Tu hai deciso di dedicare uno speciale domenica, cioè domani, sulla 7 dalle 21:15, Oriana Fallaci, storia di un'italiana. Parlare di Oriana Fallaci è ancora sempre affrontare un campo minato. Sì, ma doppiamente minato, perché Oriana Fallaci è la persona più divisiva che l'Italia abbia avuto, come succede alle donne e alle figure di grandissimo carattere e aveva un carattere terrificante, quindi ha diviso in due chi l'ha conosciuta e divide ancora più in due chi non l'ha conosciuta e se la interpreta a suo modo, no? Per cui c'è il tiro alla fune della Pallacci, contro l'Islam, contro gli immigrati, però contro un'America di un certo tipo, contro. In realtà è stata una grandissima giornalista, noi la paragoniamo, se vogliamo, a Montanelli, di cui si può dire che è stato tutte le cose nel corso di della sua lunghissima vita, no? È stato fascista, antifascista, fino americano, anti-berlusconiano, di destra, di sinistra, e tutte queste cose, no? Perché la vita poi ti mette al confronto di situazioni che sono cangianti, che cambiano continuamente. E Oriana è stata proprio protagonista di tutte, una che è riuscita a litigare con Khomeini, con Kissinger, con Deng Xiaoping, però ha avuto una storia con un astronauta che poi è andato sulla Luna, cioè ha raccontato gli astronauti che stavano per dar vita alla missione Apollo prima che Armstrong andasse sulla Luna, quindi ha raccontato e ha scritto di Armstrong e ha pubblicato un libro meraviglioso su quelle, ha scritto poi la storia di Panagiuris, ha scritto Lettera a un bambino mai nato, che secondo me è il libro che ha suscitato il maggior numero di giornaliste che io abbia mai conosciuto, cioè metà delle donne brave che ho conosciuto come giornalista. Io ho cominciato leggendo la Fallaci, o leggendo Lettera a un bambino mai nato, o leggendo Niente così sia, o leggendo Se il sole muore, cioè è stata una cosa straordinaria per tutto quello che ha fatto. Quella notte a Città del Messico con gli studenti che venivano massacrati. Cioè, la storia di Oriana è una storia straordinaria, no? E purtroppo, per quello che è successo alla fine, è diventata soltanto quella di cui la Guzzanti faceva l'imitazione. Domani sera ti guardiamo, direttore, non vedo l'ora di sentire. Storia di un'italiana. Grazie Enrico Mentana, grazie per essere stato con noi. A presto, direttore. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, brevissima pausa, perché abbiamo un'altra grande protagonista. Sono molto, mamma molto emozionata mia, di averla mia, con noi. Che tra poco, puntatona. Non ve lo dico ancora, tra poco. Che tra puntatona. Poco. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta. Radio Tube. Ma non possiamo dimenticare, e lo nominiamo last but not least, come dicono gli inglesi, il nostro grande Giorgio Albertazzi. Adesso ci siamo veramente tutti alla grandissima! Che vedi qua? Da tutti a bordo, vai! Che grande onore, maestro! Tutti in piedi per il maestro! Eccoli qua! Io mi ricordo che in quei giorni Daniele mi raccontava sempre di guardare, perché tutti e due guardiamo questa trasmissione, Ballando con le Stelle, e Daniele diceva: che meraviglia, io guardo Sai perché mi è piaciuto tantissimo che ci fosse Albertazzi in quella trasmissione? Perché siccome Rocco è un fan sfegatato di questa trasmissione, ma proprio a livelli, ha potuto conoscere Giorgio Albertazzi, certo. Quindi lui mi diceva: ma questo signore che cosa fa, che bravissimo, perché poi a lui sembrava la star assoluta, anche se forse, diciamo, si muoveva un po' meno di altri ballerini, no, ovviamente, però capiva che era la star assoluta, lo percepiva che era il protagonista, e quindi mi chiedeva chi era, e così io gli ho potuto raccontare chi era. Che meraviglia. Beh, anche questo serve la TV. Allora, io con grande gioia do il benvenuto a Radio Tube a una delle più grandi star della televisione italiana. Sono davvero contenta di avere al telefono con lui Milly Carlucci. Buonasera Milly. Buonasera, dopo questa presentazione sono rosso pomodoro. Veramente. Bella questa cosa che il bambino di Daniele ha imparato a conoscere Albertazzi. Grazie, sono contenta di che tu abbia raccontato questa cosa. Mi ha chiesto e gli ho raccontato. Che ricordo hai intanto di questa esperienza, che poi ha generato qualcosa di molto bello, del quale ti chiederò tra poco? Sì, allora l'esperienza di Ballando con Giorgio è stata all'inizio quasi surreale per me, perché avere un mostro sacro della cultura in un contesto così pop come il nostro mi sembrava, cioè non ci credevo io stessa, e dicevo: ma come abbiamo fatto a portarlo qui? E la sua presenza è stata di grandissima ispirazione, perché lui è venuto in televisione per fare una cosa precisa: lui voleva contaminare il nostro mondo pop con quello del teatro. Infatti ci ha portato Borges, ci ha portato García Lorca, cioè, insomma, è riuscito a fare questa operazione dimostrandoci che l'alto e il basso esistono nelle nostre categorie così un po' miserevoli di bibliotecari che vogliamo per forza mettere un'etichetta su tutto, ma in realtà l'alto e il basso si mescolano nella vita. Tutto è alto e tutto può essere basso. Nella cultura italiana poi è proprio una cifra. Infatti, e lui aveva poi sempre una immensa curiosità, la curiosità di esplorare, di capire, di fare un passo avanti, di rinnovarsi, di non sedersi mai sugli allori. La curiosità è quella che ha fatto di lui un uomo giovanissimo. Lui è morto giovane. Verissimo. Questa è la verità, perché non è che sei giovane perché sull'anagrafe c'è scritto sul tuo passaporto una certa data e sei già invece incrostato di pregiudizi, cristallizzato nelle solite forme. Sei giovane se tu sei sempre in movimento, e lui ha viaggiato e nello stesso tempo non ha mai dimenticato le sue radici, perché lui portava con sé Shakespeare, Dante, Adriano, no? L'imperatore, che è stato il suo grande personaggio degli ultimi 25 anni, ma tutto questo sempre rifrullato, rivisto, visto dall'alto, dal basso, moderno. Tu hai raccontato insieme alla tua autrice, spero di mettere l'accento nel posto giusto, Maddalena De Panfilis, sì. Così, proprio questo incontro con Giorgio Albertazzi, Vita, Morte, Miracoli, insomma, una bella testimonianza ti ha lasciato. Rai 5, ricordiamo, sì, stai andando in onda su Rai 5. È stata veramente un'operazione bellissima quella che Silvia Calandrelli e Pasquale D'Alessandro hanno fatto, perché con Giorgio è scomparso uno degli ultimi veramente grandi pilastri del teatro e della cultura italiana, e lui voleva fare un racconto personale di questo secolo di vita, e lo ha fatto, lo ha scritto insieme con me e con Maddalena, e poi lui ha girato fino a pochi giorni prima di scomparire, ed è il suo racconto, non è una biografia pensata da me e da Maddalena, un racconto di esterni, è il suo racconto sulla sua vita, il suo lavoro, le donne, gli amici, gli errori, le cadute, le rialzate, insomma tutto quello che c'è stato, teatro, cinema, televisione, lui è stato regista, sceneggiatore, insomma tanto, persino troppo da dover raccontare, e ne sono venute fuori tre film da un'ora che vanno in onda appunto su Rai 5, il primo è già andato lunedì scorso, lunedì prossimo, lunedì dopodomani alle 21.15 Rai 5, il capitolo che si intitola Radici, perché lui appunto ci parla delle sue radici, di Visconti, di Zeffirelli, ma poi c'è sua moglie, sempre Anna Proclebe, insomma bisogna vederlo. È il suo racconto, fatto alla sua maniera, in modo molto molto affascinante. Per te è stata una bella esperienza nuova, non ti eri ancora cimentata in un tipo di racconto televisivo del genere? Assolutamente, io ovviamente vengo da un altro mondo e mi sono avvicinata anche con un po' di spavento a questo, perché è vero che c'era lui che aveva scritto tutto e aveva in mente come dovesse essere questo suo film in pratica, però è anche vero che quando l'aveva pensato lui era ancora un uomo che voleva recitare da capo, voleva andare sulla spiaggia e recitare delle cose in Maremma con i cavalli di Pia de Tolomei alle spalle di sua moglie, no? Vestiti con le gualdrappe di De Chirico, poi voleva andare a Castel Sant'Angelo. Quando abbiamo girato lui non era più quell'uomo lì, stava già in una situazione diversa, insomma siamo arrivati fino agli ultimi giorni, quindi lui ha raccontato, qualche cosa ha recitato, ma poi siamo dovuti andare a fare un grande lavoro con amici, contributi privati, per repertori vari, per ricostruire tutto il cotè, no, di questo suo racconto. Quindi è stato abbastanza complicato e insomma, pieno di trappole, di giri strani, però ce l'abbiamo fatta. Che meraviglia. E siamo qui. E guarda, mi piacerebbe tuo figlio lo guardasse, questo è un po' complicato per lui perché non c'è, ovviamente non c'è il ballo, no, a trascinare tutto e rendere tutto semplice, però adesso non dico tuo figlio che ha 8 anni, ma ci proviamo. E sai cos'è interessante? Che tra un po' nessuno più si ricorderà che cosa ha fatto Giorgio Albertazzi, e noi nel perderci i pezzi di questo mosaico, perdendoci le nostre radici, ci perdiamo pezzetti di noi stessi. Vero. E i ragazzi non sanno niente, quindi rimane la comunicazione, quella elementare del web, che per carità è bellissima, è meravigliosa, però è sempre una comunicazione un po' fredda, no? Sì, non è, sì, non sì. è la comunicazione della partecipazione. Lui diceva, ha detto una cosa che io trovo interessante da questo punto di vista: bisogna fare in modo che la gente si incontri. Dice, il teatro è importante non solo per quello sì. che succede sul palco, ma che la gente si incontra di persona fisicamente, non dietro una tastiera. Che meraviglia, Milly, che meraviglia. Noi dobbiamo ringraziarti perché è finito il tempo a nostra disposizione. Accidenti, Milly, torna con noi, ti richiamiamo ancora quando poi torna Ballando, ti vogliamo per forza, va bene? Ok, grazie. Grazie. Ho mandato tuo figlio, ciao. Grazie. Ma sei nella prima puntata, Carlucci Mentana. Diamolo al GR, ciao.